lasciato sempre il cuore, lasciato il bordo senza mai negare, fatto a pugni con le piccole paure. Qua che il sole non è mai abbastanza e c'è la voglia di un sorriso, tu non hai bisogno più di chiedere perché. Sei il mio sogno che si avvera, stella nella notte sei. E se ci credi, se mi vedi, poi lo capirai da te. Non ho limiti nell'universo, per te che se son perso sai. In casa e forse non sai ancora che tu sei speciale. Tra i miei limiti trovo gli sbagli e quei sorrisi che tu mi dai. Non ho rimpianti che mi svegliano la notte. Credevo solo fosse un po' più facile girar la testa e non vedere più quei momenti in cui non c'eri, non c'eri tu. Sogno che si avvera, stella nella notte sei. Se ci credi, se mi vedi, poi lo capirai da te. Non ho limiti nell'universo, per te che se son perso sai. Di casa e forse non sai ancora che tu sei. Sei il mio sogno che si avvera, stella nella notte sei. Se ci credi, se mi vedi, poi lo capirai da te. Non ho limiti nell'universo, per te che se son perso sai. Di casa e forse non sai ancora che tu sei. Speciale.